Eco Theory. È partito Edit da Radio Samarcanda. Ah, vedo che siete in tanti, mi fa piacere. This world we're thrown. Ministry of Funk, Riders on the Storm. E adesso una cosa dei Rolling Stones che ho ritrovato qualche tempo fa. She confessed her love to me, then she vanished on the breeze. Trying to hold on to that was just impossible. She was more than beautiful, closer to ethereal, with a kind of down-to-earth flavor. Close my eyes, it's 3 in the afternoon. Anybody seen my baby? I realize that she's really gone for good. Rolling Stones, anybody seen my baby? Benvenuto a tutti nella stanza del nonno. Oggi cerco di utilizzare tutte le macchine che abbiamo. Devo fare delle prove tecniche, ma anche delle prove di ascolto. Per esempio, ho scoperto che c'è un brano di Vasco Rossi dal un disco registrato dal vivo al Circo Massimo che mi sembra piuttosto attuale. Lasciamo questo LP di Donald Fagen, che è uno di quelli che mi porterei sull'isola deserta. Pero, pero, pero. Da quella parte, sì, da quella parte. Ecco, siamo sul palco. Siamo dietro al palco. Adesso pian piano andiamo avanti. L'aveva detto il vecchio passo che abitava al monte. Non era nel drone. Nessuno aveva dubitato delle sue parole. Facendo giorno e non era arrivato nessuno. Non si poteva più aspettare il ballo. Qualcuno già diceva che non esistevano nemmeno. Presero il volo. Dopo il Covid ci voleva anche Se un dittatore opprime il suo popolo, dobbiamo lasciarlo fare? Ma se c'è un genocidio, non dobbiamo intervenire anche ricorrendo alla forza per fermarlo? Potrei continuare con il repertorio di chi si è arreso all'idea della guerra, di chi la difende, la invoca, la giustifica, di chi la decide e chi la fa. Queste domande però hanno già ricevuto una risposta. Sappiamo esattamente che cosa è stato fatto finora, quale scelta è stata compiuta, molte volte. La risposta è stata quasi sempre la guerra. La vita, la dignità, la libertà, la sofferenza e la morte delle persone sembrano argomenti minori, anche rispettabili ma sostanzialmente marginali per chi si sente sulle spalle l'arduo compito di sovrintendere i destini del mondo. Dopo tutti questi anni di guerra, la sola realtà, la sola verità inoppugnabile è che quello strumento, quella scelta, ancora una volta, non ha funzionato. Non c'è bisogno di avere principi etici intransigenti, né visioni politiche specifiche per capire che la guerra come strumento non funziona. Basta un minimo di intelligenza, basta solo guardare le cose in modo obiettivo e senza pregiudizi. La guerra per far finire le guerre, no? 1916, Thomas Woodrow Wilson. La guerra, anche quella che si invoca o si fa per porre fine ad altre atrocità, per far finire tutte le guerre, non può funzionare perché è di per sé antitetica alle ragioni che la sostengono. La guerra è la negazione di ogni diritto. Ma la guerra c'è sempre stata, risponde qualcuno. Ma il fatto che la storia sia stata segnata da innumerevoli conflitti non dimostra che la guerra sia inevitabile. Né che un mondo senza guerre sia destinato a rimanere un sogno. La pratica della guerra è una situazione di fatto, non una necessità. E per cambiare questa situazione di fatto dobbiamo imparare a pensare in modo diverso. Perché finché resterà un'opzione disponibile per risolvere le nostre controversie, la guerra continuerà ad essere di fatto la prima opzione. Eliminare l'ipotesi della guerra dagli strumenti che regolano la convivenza umana è la scelta più razionale, realistica e sicura per i cittadini del pianeta. Ma non possiamo aspettarci che lo facciano i parlamenti del mondo, che hanno sempre e comunque votato a favore della guerra. Dovremmo impegnarci noi, in prima persona, per buttare la guerra fuori dalla storia. Tocca a noi agire prima di ritrovarci in mezzo ad altri morti e ad altro dolore. Possiamo parlarne come di un'utopia. Si usa spesso questo termine con un tono di sufficienza, no? Come si fa con i sognatori o con i mezzi matti. Ma utopia non è il nome dell'assurdo. Utopia è il nome di desideri, idee, progetti che che possono diventare realtà. Immaginare nuovi obiettivi e poi raggiungerli è lo schema ricorrente nella storia degli uomini e delle donne di questo pianeta. Another one. haste wave, race towards another grave. Roger Waters si è impegnato moltissimo in questi ultimi anni per risvegliare le coscienze attraverso la musica, attraverso la sua musica, attraverso i suoi testi riveduti in un'ambientazione diversa. Ha pubblicato The Dark Side of the Moon, costruito con dei suoni completamente nuovi. E mentre noi nella mente ascoltiamo questo disco ricordandoci le emozioni che ci ha dato un disco che non mi ricordo quante migliaia di volte ho ascoltato senza annoiarmi mai, la perfezione assoluta. E comunque il suono dei Pink Floyd appartiene a un momento, a un mondo, a qualcosa che ci appartiene in maniera collettiva. Non è un gruppo che hanno sentito in pochi. Quando si manda in onda un brano di Pink Floyd, c'è il mondo che si ricorda di questi suoni. Oh, E quando si ascoltava ad occhi chiusi questa musica, in qualche modo si partiva dal pianeta, si andava fra i satelliti, attorno alla Luna. La mente si staccava, no? Attraverso la musica. Si cercava di avere il controllo della terra e del sole. Counting the leaves which tremble at dawn. Lotuses lean on each other in your name. Under the leaves the soul is resting. Gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Il primo articolo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, firmata il 10 dicembre del 1948, stabilì questo principio straordinario. Dopo che metà dell'umanità aveva conosciuto le leggi razziali e i campi di sterminio, la guerra e la fame, finalmente la comunità internazionale scriveva le premesse perché quella catastrofe non accadesse mai più. Se oggi nel mondo ci sono oltre 40 conflitti attivi, 26 ultramiliardari possiedono più risorse della metà più povera del pianeta e 11 persone rischiano di morire di fame ogni minuto, è evidente che qualcosa non ha funzionato. A oltre 70 anni dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, nessun governo, nessuno stato del pianeta ha costruito realmente quei diritti che si era impegnato a realizzare. Cibo, cure mediche, istruzione, un posto sicuro dove stare. Neppure questo è stato fatto, indebolendo le fondamenta della nostra vita insieme, sostituendo alla libertà il sopruso, alla giustizia la più spietata e violenta aggressione, alla pace la guerra. Oggi quel documento suona provocatorio e offensivo. In un mondo in cui miliardi di esseri umani nascono schiavi e diseguali, non ci sono diritti per tutti, ma privilegi per pochi. E la guerra è il simbolo di questo mondo di umani senza diritti, a cominciare da quello a restare vivi. È uno strumento violento per mantenere in schiavitù. Poco importa, in questo caso, di che nazionalità siano gli schiavi. è uno strumento violento per mantenere in schiavitù molti cittadini del mondo e insieme una fonte di nuove privazioni, perché la guerra uccide non solo il presente, ma anche il futuro, divorando risorse che basterebbero per vincere, ad esempio, la fame e la povertà. Get back, I'm a I certainly was in the right. Spend the days of my vanity I'm lost in heaven and I'm lost to earth. Didn't give you minutes, not even moments. All my life in a tower of form, shaded feelings, I don't believe you. When you were there before my eyes, no one planned it, took it for granted. I count the hours since you slipped away. The hours that I lie awake, I count the minutes and the seconds too. All I stole and I took from you. But Barney don't live at home. Barney don't live at home. Words don't hold you, broken soldiers. Siamo passati dai Prefab Sprout, una canzone che si chiama Bonnie. Ha un gruppone che ha fatto la storia della musica pop, rock, jazz. Si sente l'odore del ranch? Chicago. Thank you. Flight, Jeremy Ledbetter Trio. Questo è il basso a 6 corde. Siete su Samarcanda Digital Network, io sono Edit, al microfono con voi. La trovate anche su radiosamarcanda.it. Non ho detto a nessuno che andavo in onda oggi. Volevo vedere quanti eravate. Vi ricordate un film che si chiama Round Midnight? Da quanto tempo non lo vedete? Non l'avete mai visto? Lo dovete assolutamente cercare perché è uno dei film più belli attorno al jazz. Protagonista Dexter Gordon, che in questo caso sta suonando il sax soprano. E intorno a lui ci sono Chet Baker, John McLaughlin, Billy Higgins, Herbie Hancock, che si vedono tutti nel film, eh? Quindi sono musicisti veri che suonano. Beh, un film spettacolare. Questa è tratta proprio dalle sessioni di registrazioni per il film, si chiama Tivoli, è un luogo che sta dalle parti di Copenaghen. Thank you. C'è un musicista che è scomparso da poco tempo, si chiamava Ralph Towner, e qui sta suonando insieme a un bravissimo musicista italiano, non ancora qui siamo ancora nello studio insieme a Dexter Gordon nella registrazione di Round Midnight, ma adesso ci spostiamo su questo album ECM. Sentite subito le atmosfere completamente diverse. Sacred Place. Paolo Fresu e Ralph Towner. Ralph Towner e Paolo Fresu da questo bellissimo album della ECM. Lo so, l'abbiamo sentito tantissime volte, ma fa sempre piacere riascoltarlo. Hello, Smooth Operator. Quanti sguardi ci siamo scambiati ballando questo brano con un bicchiere in mano. Bello, bei tempi, sì. Thank you. Wolfpack. Avete sentito dei rumori? Stavo giocando con i volumi. Ogni tanto David Bowie bisogna che lo rifrequentiamo, sennò finisce che poi lo perdiamo fra le stelle. C'è un musicista, ciao Nirvana, c'è un musicista che mi piace spesso rifrequentare. È un amico, è un grande sassofonista italiano, si chiama Mauro Verrone, e ha costruito un album piuttosto bello che si chiama Callisto Place. Perché si chiama Callisto Place? Perché questi musicisti, anziché andare a suonare in un teatro, in un auditorium, in un club, sono costretti a suonare per la strada, in questo caso a Piazza San Callisto, dove comunque incontrano un sacco di persone che li amano alla fine, li vogliono bene, e quindi trovano anche qualcuno che gli snocciola un sacco di soldini. Sentite che bravi. Mauro Verrone al sax, Karim Blal al piano, Max De Lucia alla batteria e il contrabbassista. Non me lo ricordo mai. I'll be seeing you. Mauro Perrone in quartetto, ma è in trio perché non mi ricordo un nome. Max De Lucia alla batteria, Mauro Perrone al sax, Karim Blal al piano. Vabbè, me lo scriverò da qualche parte il nome di questo musicista. Ogni volta faccio fatica a ricordarmelo. Ma questo invece lo dovreste riconoscere. È un certo He's a sportsman and a shepherd. Leonard Cohen. He's a lazy bastard living in a suit, but he does say what I tell him, even though it isn't welcome. He just doesn't have the freedom to refuse. He will speak these words of wisdom like a sage, a man of vision, though he knows he's really nothing but the brief elaboration of a tube. Going home without my sorrow, going home sometime tomorrow, going home to where it's better than before. Going home without my burden, going home behind the curtain, going home without the costume that I wore. Thank you. coin. Un brano famosissimo di Oliver Nelson, suonato però da un pianista particolarissimo, si chiama Ahmad Jamal. In trio, e il brano è Stolen Moments. Un'incisione che arriva dal 1970 da questo straordinario pianista Ahmad Jamal. Se non lo avete mai ascoltato, sarebbe interessante mettere in macchina durante il viaggio uno dei suoi dischi e imparare ad ascoltarlo, veramente un pianista speciale. Dal tocco personale inconfondibile. Intravedo un disco di Max Roach che bussa alla mia porta e vorrei, con grande curiosità, andare a sentire di che si tratta. Max Roach è stato un batterista fondamentale per il bebop. Ha suonato tantissimo con Charlie Parker, Dizzy Gillespie. Ed è stato un maestro per tanti batteristi. Qui c'è un'orchestra, vedo. Sento, anzi. Mi succede spesso che quando la musica devia sul jazz, alla fine io poi ci rimango, anche se non sono partito per farvi ascoltare solo del jazz, ma è poi la radio che me lo richiede. Max Roach, Obstructions. Particolarissimo lavoro giovanile di Max Roach. Immagino che conosciate tutti una melodia che abbiamo ascoltato tantissime volte, anche come musica di film. Il brano si chiama Round Midnight, composto da Thelonious Monk. Ma qui alla chitarra c'è un grandissimo musicista, si chiama Wes Montgomery. Wes Montgomery in trio, e questo è un brano ormai che siete in grado di fischiettare in molti, no? C'è un musicista che invece ho conosciuto in occasione della mia partecipazione come presentatore a una serata all'Arena Sferisterio di Macerata alcuni anni fa, dove si esibiva l'orchestra di Dizzy Gillespie. Era una big band, e in questa grande big band c'era un sassofonista che si chiama Sam Rivers. Sentite che suono. Il brano si chiama Beatrice, che che emozione aver potuto conoscere questo musicista. Piano c'è Jackie Byard e al contrabbasso Ron Carter. Un album per la Blue Note. Alla batteria c'è Anthony Williams. Che bello quando compare il nome dei musicisti, che spesso viene ignorato sui social. Ecco Ron Carter. Al sassofono abbiamo sentito Sam Rivers. Fuchsia Swing Song è l'album. Nel caso voleste acquistarlo. Grande Sam Rivers. Non mi sono minimamente accorto che È finito il tempo, io ero convinto di poter andare ancora avanti per un bel po'. E il programma praticamente ha deviato la sua strada verso una delle mie musiche preferite, il jazz. Bene, il tempo a mia disposizione è finito. Edith vi saluta e vi ringrazia per essere stati con me.